Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Nicola Levoni, 100 anni di salumi con le ali, di Alessandra Scaglioni e Paolo Piacenza. Nicola Levoni ha 40 anni. L'azienda di famiglia di cui è presidente ne compie 100 quest'anno. La sede principale è a Mantova. Produce salumi, oltre 200 tipi, che vende in Italia ed esporta in tutto il mondo. È stato il bisnonno Ezechiello a dare il via all'impresa. Ma effettivamente l'azienda quest'anno compie 100 anni, quindi compie 100 anni dalla registrazione alla Camera di Commercio. Qui da Milano parte ancora prima il bisnonno, facendo il garzone di bottega proprio da Peck in via Spadari. Quella che probabilmente presumiamo fosse una salumeria una macelleria. E quindi lui inizia la sua esperienza lì. Poi dopo si sposta verso Mantova, proprio avvicinandosi a quello che poteva essere una prospettiva distributiva già dei prodotti. Già pensava a come distribuirli. Produce vicino a dove ci può essere una rete ferroviaria con la quale distribuire i prodotti sul territorio. E i salumi Levoni vanno quasi subito all'estero, a Londra, all'esposizione internazionale Modern Arts and Industry del 1913. È stato proprio il bisnonno che portò il primo salame a Londra, e non riesco neanche a immaginare come ci andò, perché insomma non c'erano aerei così frequenti come adesso. Ma lui andò a questa esposizione, a questa fiera a Londra, dove poi vinse proprio questa medaglia d'oro per questo prodotto. Arrivò alla competizione con il suo cesto di salumi e trovandosi di fronte alla giuria e anche agli altri competitor inglesi, questi gli dissero, la storia dice che ma tu vincerai questo premio quando i maiali metteranno le ali, un famoso detto inglese, when pigs will fly. E lui non gli dà molto retta, va avanti, in effetti vince la medaglia d'oro, che noi riportiamo adesso anche su alcuni nostri prodotti, oltre al salame ungherese medaglia d'oro, e dice io scenderò a compromessi sulla qualità quando i maiali metteranno le ali. Questa cosa carina poi noi l'abbiamo riportata come un filo rosso lungo tutta la storia dell'azienda, e mettendo proprio questo maialino alato, volendo scherzare, proprio sopra al nostro marchio, sopra al marchio Levoni. Il prodotto con cui vinse la medaglia d'oro è il suo primo prodotto, il salame ungherese. La sua passione per la qualità e per una tipologia di prodotto abbastanza particolare, quindi affumicato, inizia con un prodotto in particolare, che è il salame ungherese. Salame ungherese che viene prodotto appunto con tagli di suino molto pregiati italiano, ma viene affumicato con delle tecniche che sono più tipiche della zona vicino alle Alpi, quindi vicino all'Austria, vicino alla parte ungherese quando c'era l'impero austro-ungarico dell'Italia, ed è lì poi anche dove il prodotto viene inizialmente a successo e viene distribuito. Quindi prodotto a Mantova, salame ungherese, ma con delle caratteristiche che potessero andare bene un po' a tutti i consumatori. Questa caratteristica resterà alla base del lavoro della Levoni: produrre specialità regionali, distribuirle e farle conoscere. Diciamo che l'azienda ha iniziato a produrre dei prodotti che andassero bene per quelle zone che sono appunto l'Alto Adige, la zona di Trieste e così. Poi inizia questa ricerca delle specificità delle regioni, inizia ad ampliarsi e quindi a scegliere le varie specialità regionali e produrle a Mantova con gli standard qualitativi che può dare un'industria che si è evoluta negli anni da artigiano a artigiano evoluto, con le garanzie, con le quantità. In questo modo però appunto doveva distribuire, quindi trovare agenti, clienti, e da lì venivano poi anche gli stimoli. Il rapporto, che tuttora è molto molto vivo, molto caldo, tra l'azienda, i propri agenti, i propri clienti, è quello che dà anche lo stimolo per trovare quei prodotti che possono essere un nuovo prodotto per il consumatore. La sede storica dell'azienda è a Casalecchio, vicino a Mantova. E nel 1976 nasce McCarney, sede specializzata nella macellazione della carne suina. Poi arrivano anche i prosciuttifici e l'azienda specializzata in prodotti di carne fresca, tutti sotto la capogruppo Levoni S.p.A. Io ho 40 anni, qualcosa ricordo ancora fin da piccolo, qualche passaggio, perché quando ero molto piccolo magari vivevo l'azienda anche come se fosse un parco giochi durante la domenica, che era l'unico giorno in cui non si lavorava, e avendo cortili ampi così, insomma, la biciclettina riuscivo a vedere un po' tutto quello che c'era in azienda assieme ai miei cugini, assieme a tutta la famiglia. E lì le prime cose che vedevo erano anche gli animali che erano in azienda, quindi c'erano sia i bovini che i suini, così. Poi l'evoluzione cos'è stata? Spostare quello che era la parte di macello a 6 km dall'azienda, fondando il nostro macello McCarney, che appunto adesso è distante 6 km e che insomma si è sviluppato come una grossa azienda di macellazione. Abbiamo eliminato la parte dei bovini, perché ora i salumi si fanno solo con il suino, col suino tipico della nostra zona, e quindi questa sicuramente è stata un'evoluzione. Poi negli anni abbiamo aperto c'era l'esigenza appunto di produrre il prosciutto di Parma, quindi siamo andati nella zona tipica a Langhirano e abbiamo costruito un prosciuttificio a Langhirano, dove adesso produciamo 130.000 prosciutti di Parma. Poi successivamente c'è l'occasione, c'è in vendita un prosciuttificio a San Daniele, abbiamo l'esigenza di ampliare la gamma col prosciutto di San Daniele, abbiamo comprato questo prosciuttificio e poi insomma sviluppato, ampliato e quant'altro. Oggi la Levoni ha 200 prodotti, tra salami, coppe, prosciutti crudi e cotti, mortadelle, pancette, e punta molto sulla rete di vendita e sul rapporto con la clientela. Abbiamo circa 200 prodotti, ma i prodotti senza da soli poi non è che escono dall'azienda, quindi è molto importante la fase produttiva, la fase di ricerca della qualità, che parte dalla selezione delle materie prime, dalla selezione delle spezie, dal tipo di lavorazione e dal, chiamiamolo, finissaggio del prodotto prima di arrivare dal cliente, ma è anche importante poi che venga veicolato bene tramite tutti i nostri uffici e le persone che sono sul territorio ad argomentare e vendere i prodotti. Per fare questo ci sono delle attività di formazione che facciamo anche verso la nostra clientela. Tant'è vero che dal 2008 ad oggi abbiamo sempre fatto dei corsi per innalzare anche la conoscenza, e questa era un'esigenza che veniva proprio dalla clientela, innalzare la conoscenza della gestione del proprio punto vendita, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista economico, così, dei nostri clienti. Abbiamo circa 8.000 clienti di dettaglio tradizionale, quindi gastronomie, salumerie e macellerie in Italia, ma anche all'estero, e a loro abbiamo sempre dedicato molto tempo. Ultimamente abbiamo dedicato anche dei corsi specifici, e questo ha avuto un grande successo sia di attaccamento all'azienda che di diciamo specializzazione e anche di stimolo, perché siamo andati ancora più in profondità, ancora più in sintonia con la nostra clientela. La scelta di Levoni è stata ed è rimasta quella di rivolgersi principalmente al commercio tradizionale: salumerie, macelleria, gastronomie. Il fatturato per il 2010 sfiora i 100 milioni di euro. Il 20% viene dalle esportazioni, l'80% dalle vendite in Italia. Di questi 80 fatti in Italia, sicuramente abbiamo un'altissima percentuale fatta nel dettaglio tradizionale. Alta percentuale, sto parlando di 65 milioni di euro nel dettaglio tradizionale. Questo viene fatto appunto con l'aiuto di personale, quindi 330 dipendenti a Castelluccio nella sede principale, 190 nel macello, ma soprattutto anche quasi 150 agenti sul territorio. Questo sicuramente è tutto quello che è il grosso fattore umano che porta alla qualità del servizio, ma anche del prodotto. Portavo l'altro giorno un cliente americano in visita e si stupiva tantissimo di quanto personale si dedica ad un singolo prodotto, perché usando materie prime naturali, quindi un budello naturale, legando a mano un prodotto, così si vedono veramente anche una trentina di persone su un tavolo a occuparsi di un singolo prodotto. Insomma, anche per un americano trovare una cosa del genere era veramente stupefacente per lui. Ma ci sono tantissimi esempi di clienti o di personaggi anche della ristorazione così che si sono trovati stupefatti da cose che noi magari davamo per scontate, consideravamo assolutamente naturali. Tra i paesi dove Levoni esporta i suoi prodotti, molti paesi europei, prima fra tutti l'Austria, e una grande attenzione agli Stati Uniti. Il rapporto con l'esportazione nasce appunto dall'origine, no? Andammo a Londra a vincere la medaglia d'oro, ma poi nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si comincia un'esportazione veramente importante verso gli Stati Uniti. Certo non c'era la refrigerazione corretta così, ma allora i salami viaggiavano in casse di legno colme di strutto, quindi di grasso suino, con infilati dentro i vari salami, così arrivavano a destino ancora morbidi, ancora di ottima qualità. Ora dove esportiamo? Ora esportiamo in 50 paesi, quindi in Europa, negli Stati Uniti, nell'Estremo Oriente. E poi c'è anche qualche chicca, no? Si va a esportare anche in paesi dove non si immagina di poter portare un prodotto di maiale, perché l'altro giorno rincontravo il nostro importatore di Dubai, lui mi spiegava, discutevamo un attimo dei risultati decisamente soddisfacenti, e lui diceva: la mia soddisfazione poi maggiore è che qua in realtà a Dubai non potremmo non è che sia così accettato il prodotto di salumeria, quindi un risultato del genere lo esalta ancora di più, no? E quindi questo è anche sono belle storie di questi importatori appassionati del prodotto di qualità, che però si trovano anche con delle oggettive difficoltà anche culturali a distribuire il prodotto. Poi non so, siamo presenti in Libano, in Giappone, in Corea, in Australia, gli Stati Uniti danno grosse soddisfazioni, Sud America anche. Il fondatore Ezechiello Levoni ha avuto 3 figli e le famiglie hanno gestito assieme l'azienda, seguendone i diversi settori e sedendo in consiglio di amministrazione. La consuetudine vuole che, raggiunta una certa età, fratelli e cugini si ritirino tutti assieme, lasciando il posto ai figli e ai nipoti. L'azienda era partita appunto ab origine con una persona sola, che era il fondatore. Questo ha vari figli, nelle varie generazioni, prima non c'era un'apertura totale, diciamo, alle donne che sono entrate con la nostra generazione, perché insomma si sistemavano in altro modo, si sposavano, seguivano le attività dei mariti. E questo fino alla generazione dei miei genitori. Poi dopo, con la nostra generazione, sono entrate anche mia sorella, mia cugina, così. Ci sono sempre state 3 famiglie dopo il fondatore che hanno seguito, che hanno rappresentato, che hanno seguito l'attività e quindi venivano rappresentate all'interno dell'azienda. Tuttora il nostro consiglio di amministrazione, formato dal sottoscritto, da Aldo Levoni, mio cugino, e da Alceo Zanotti, il genero di mio zio Paolo, e quindi rappresentano le 3 famiglie anche della generazione precedente. Quindi ci sono sempre 3 famiglie che governano l'azienda, che portano avanti la tradizione. E questo penso che sarà poi anche il segreto del futuro. Oggi Nicola è presidente della Levoni S.p.A. e dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. La sorella, Marella, si occupa della comunicazione. La cugina, Daria, della qualità e del settore ricerca e sviluppo. I prossimi obiettivi della famiglia: seguire la tradizione con uno sguardo all'estero. Diciamo, siamo arrivati a 100 anni e vogliamo continuare ad andare avanti. Noi abbiamo sempre utilizzato la politica dei piccoli passi e non credo che vorremmo fare delle cose stratosferiche o pianificare cose stratosferiche. Andiamo avanti sempre con i piccoli passi, ma stando al passo dei tempi e sviluppando quello che sono le nostre vendite di mano in mano. Credo che il mercato del futuro sarà sempre sviluppare quello che è e specializzare quello che è la nostra clientela tipica, dettaglio tradizionale, ma anche espandere molto nei paesi esteri, dove credo ci sia ancora tantissimo da fare. Abbiamo messo tante bandierine, in alcuni casi abbiamo costruito la casa sotto,